Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. L'una e mezza. Vabbè. Ah, è lo stesso. Allegria. Andiamo tutti a casa mia. Ho una bottiglia nuova di Prunella Pallor. Tutti a casa da tazzi. Via. Auguri. Chi è che viene nella mia macchina? Ho 7 posti liberi. Attenti sotto. Buttate, buttate. Una nuova roba nuova. Buon anno. Io quasi quasi la lascio parcheggiata qui. Oh, finalmente si ricomincia, caro Pier. Buon pomeriggio. Come va? Benissimo. Non ne posso più. No, non ne posso più. Nemmeno io. Però se vuoi ti dico subito il motivo per cui secondo me vale davvero la pena di ricominciare. Sì. Il mio motivo è James Stokes. Lo conosci? Certo. È un mito. Idolo assoluto, tifoso dell'Arsenal, aveva scommesso, aveva detto: se segna Bentner un gol decisivo mi cospargo di marmellata. Io non so se il buon Franco Piantanide, autore di questa puntata, pubblica la foto su Twitter, chiocciola tutti convocati, se avete lo stomaco debole state attenti, però idolo assoluto, si è cosparso di marmellata, credo di fragole, non so se hai visto la foto. La battutaccia che girava dalle parti dell'Amy Rates l'altro giorno, che poi ieri, ieri pomeriggio. Sì, ieri pomeriggio, è che Bentner in un'azione sola si è riuscito a fare tre cose meravigliose, cioè a segnare, a dare i tre punti all'Arsenal e a farti male. Ma a parte tutto, questa era veramente la battutaccia. Sì, c'è anche chi ha scritto che Bentner ha segnato più gol del Real Madrid e del Barcellona nel 2014, hai capito? Sì, ma anch'io ieri a calcetto ne ho fatti 4, quindi sono senza che si erano ieri dell'anno solare. No, beh, mi sembra una notizia. L'Arsenal secondo me è in calo. Io penso che in Inghilterra il campionato lo vincerà il City o la prima alternativa è il Chelsea. Credo che l'Arsenal stia facendo comunque una grandissima stagione, secondo me in qualche modo riportabile per quella che è la realtà italiana, il campionato eccezionale che sta facendo la Roma, perché è la vera grande sorpresa della stagione. E però io penso che alla fine il City, soprattutto il Chelsea, avrà qualcosa in più, però intanto Bentner tiene l'Arsenal in testa, quindi insomma questo contribuisce a rendere il campionato ancora più stimolante. Invece io, caro Pier, voglio scommettere sull'Arsenal, perché adesso che Bentner si è sbloccato, del resto lui aveva detto che il suo futuro è al Barcellona o Real Madrid, perché li merita, quindi il 2014 è il suo anno. 800 24 00 24, se volete interrompere per qualche minuto la sciata, darci un colpo di telefono. Ad esempio, per dirci su che attaccante italiano voi fareste una scommessa simile. A me viene in mente Belfodil dell'Inter, a te Pier? Ah, mi sembra che la scommessa su Belfodil per ora sia una scommessa, diciamo, ancora non riuscita, rimandata, insomma. Quindi lo possiamo dire, se Belfodil segna un gol decisivo, Pierluigi Pardo si cosparge di marmellata. Guarda, io penso che un tipo così, che secondo me fra un po' ci telefona, anzi potremmo anche chiamare, anzi adesso secondo me parliamo con Piantanita, vediamo di disturbarlo, può essere Moscardelli, che è uno Moscardelli, allora adesso proviamo. È uno che secondo me sa stare al gioco, è molto ironico e può... E non si sarebbe certamente offeso, insomma, di fronte a uno Stokes qualsiasi. Io dico anche Matri, magari lui se la prende un po' di più, però se segna magari qualcuno si può riempire di marmellata. È uno ironico. Chi lo conosce sa che è un ragazzo molto molto autoironico anche. È chiaro che non è che viva esattamente il momento più bello della sua esperienza calcistica. Insomma, un giocatore che 2 anni fa, nell'anno del primo scudetto della Juve, è stato comunque il miglior realizzatore della Juve con 10 gol in campionato. E poi ha vissuto un 2012 complicatissimo, quella doppietta contro il Cagliari sul neutro di Parma nell'ultimo dell'anno l'ha resa un po' meno amara, ma lui si era bloccato in realtà dal gol con l'Udinese d'inizio stagione, quello all'ultimo minuto dec- decisivo per i tre punti, si era bloccato praticamente per 6-7 mesi, quindi ha perso completamente. Il Milan sembrava, sai, l'allenatore che lo conosceva molto bene, sembrava ideale, sembrava la destinazione giusta, come Parma sembrava, è forse la destinazione giusta per Cassano. Tu ce l'avevi detto una ventina di giorni fa, Cassano resta a Parma, Cassano lo sta annunciando proprio in questi minuti, ha detto resto a Parma, qui mi trattano da re, non ho mai sentito Edoardo Garrone, non ci sono stati contatti, quindi tutte queste voci sulla Sampdoria non sono vere e comunque mi hanno distratto. E poi ha detto, udite udite caro Pier, ma tu certamente lo sai, ha detto Antonio Cassano, ho lo 0% di possibilità di andare al mondiale, 800240024, secondo me è stato anche abbondante. Ma sì, però adesso fammi fare un attimo l'avvocato difensore, nel senso che comunque sia, alla fine io credo che insomma se il campionato deve, se la nazionale deve riflettere i valori del campionato, Cassano una possibilità la merita, anzi una e mezzo, perché comunque alla fine sta facendo una stagione importante con 7 gol, con tanti assist, sta facendo molto bene. È chiaro che Parma non è esattamente il Tardini, non è esattamente il Bernabeu, senza che nessuno si offenda, quindi magari queste imprese o queste giocate fanno un po' meno notizia rispetto agli altri, ma quando l'altro giorno ho visto addirittura qualcuno che nei flop della stagione del 2013 ha messo Cassano, allora capisci veramente che la sua immagine è rovinata per sempre, perché se anche in una stagione nella quale comunque fa discretamente con l'Inter, poi parte, va a Parma e gioca comunque bene come sta giocando, viene considerato uno dei flop della stagione, allora vuol dire veramente che forse sta troppo sulle scatole ad alcuni per poter... Sì, però insomma ha una parte, io non voglio una fare, parte non voglio di colpe sue, io penso caro che in Pier. Assoluto in un mondo normale un giocatore così è un giocatore che devi prendere in considerazione Almeno fino a maggio, poi dopo ovviamente sì, ne vanno 23 e tutti gli altri restano a casa, come prenderai in considerazione Totti, come prenderai in considerazione di Natale, cioè mi sembra che poi chi sarà più in condizione a maggio deve essere in grado di giocarsela. Qui se il problema invece non è tecnico, è di natura strettamente comportamentale, allora vuol dire che è successo qualcosa con Prandelli. Prima o poi ce lo racconteranno, certo. Forse prima o poi ce lo racconteranno, forse se Giovinco segna di testa mi cospargo di panna montata. Andrea da Pinerolo, 800240024. Se Giovinco segna di testa mi cospargo di panna montata, oppure se dovesse... volevo capire chi era il protagonista. Andrea da Pinerolo. Andrea. No, per un attimo ho avuto una sensazione femminile. No. Devo tenere a bada l'ormone, sì. No, se dovesse segnare Meggiorini un gol nel derby, altro che marmellata bagna cauda, Roberto da Crema. poi c'è chi scommette sui gol di Gomez al rientro. Beh, ma insomma, Gomez non è come Bentner. A me, no. I tifosi dell'Arsenal fanno impazzire. Su Twitter gira anche questo fotomontaggio. Allora, le maglie di Ribéry, Ronaldo, Gerrard, Ibrahimovic, Rooney e Messi, sai che cosa hanno in comune? Che se tu fai la somma 7 più 7 più 8 più 10 più 10 più 10 fa 52, che è il numero di Bentner. E loro le hanno messe tutte insieme. No, scusa, ma davvero, Bentner e James Stokes sono i motivi per cui oggi 2 gennaio vale la pena essere qui a parlare di calcio. Ho letto su Tutto Sport questa mattina, a proposito di Milan, che Seedorf chiama Maxi Lopez al Botafogo e in estate lo porterà al Milan. Immagina che derby con Icardi. Sì, immagino, ma sarebbe clamoroso, ma insomma in effetti poi è stata sempre smentita, ma la voce che fosse in realtà una ipotesi per l'Inter è una voce che in qualche modo era circolata e che poi è stata smentita, e quindi insomma, è chiaro che lì la condivisione dello spogliatoio sarebbe abbastanza complicata con Icardi. È una bella suggestione, Maxi Lopez è un attaccante che adesso, al di là delle vicende di gossip, si è un po' perso in questi ultimi anni perché non ha avuto più mai continuità di rendimento, però è un giocatore che ancora secondo me può trovare dei clienti pronti a dargli una chance, perché comunque nella storia del calcio degli ultimi anni è un giocatore che ha un pedigree, ha un palmarès, ha avuto delle stagioni positive, quindi che qualcuno ci possa credere che magari un calcio un pochino più cadenzato come quello brasiliano possa trovare spazio, non ci sono dubbi. Io poi ricomincio, caro Pier, anche per Angelo Mario Moratti. Io non so se hai letto questa mattina l'intervista sulla Gazzetta, vicepresidente dell'Inter, rappresenta l'eredità di Moratti, resta in società come vicepresidente. Beh, questa mattina elegantemente, a suo modo, ha detto agli interisti che non ci sono soldi, ha detto fare un modello diverso di società, quindi senza il mecenate potevamo farlo anche noi in famiglia, solo che avremmo dovuto cambiare la nostra natura e noi noi siamo tifosi viscerali, cioè detto tra le righe, siamo tifosi e mai avremmo accettato di fare quello che accadrà nell'Inter dei prossimi mesi. Non lo so, domani apre il mercato, io ho letto delle robe folli, fossi un tifoso dell'Inter da girare la testa, si passa dalla Mela, Lavezzi, Mata, Dembabà, Nainggolan. Ho l'impressione che, non lo so, prova a guardare nella palla di vetro. Ma io penso che la sensazione che l'Inter non sia per fare un mercato milionario, folle, faraonico, è una sensazione che abbiamo tutti, ce l'abbiamo con grande chiarezza, insomma, credo, senza nessuna discussione, ce l'abbiamo da quando sono state un po' delineate le linee guida della gestione Tohir, e credo che l'affermazione di Moratti Junior di stamattina sia vada in questa direzione, insomma. Poi nel calcio ci sono esempi, mi viene in mente la Roma di quest'anno, per esempio, che sono esempi virtuosi, oppure la stessa Inter dell'anno del triplete, con la cessione di Ibrahimovic riuscì di fatto a ristrutturare la squadra e risparmiò dei soldi, comprò dei grandi giocatori come Toh, come Lucio, come Snyder, e vinse tutto. Quindi lì poi c'entra la qualità, c'entra anche il fattore C, perché un po' di fortuna ci vuole ovviamente, ma c'entra certamente il talento dei talent scout e degli uomini di mercato. L'esempio più recente è quello della Roma, sicuramente. Roma ha comprato Benatia al posto di Marquinhos, ha fatto un sacco di soldi e quest'anno Marquinhos è quasi un flop e Benatia è un fenomeno. Ha comprato Stroppa in mezzo al campo, ha venduto uno come Osvaldo davanti, ha fatto operazioni pesantissime ed è riuscita a portare a casa soldi, ha fatto la cessione di Aic Lamela, lo scambio di Aic Lamela, anche lì prendendo un sacco di soldi, alla fine ha chiuso in positivo il bilancio. Sì, bisogna avere l'idea anche un po' di fortuna. Ho l'impressione però che se l'Inter riuscirà a piazzare sul mercato qualcuno, il nome più gettonato è quello di Guarin, quei soldi in gran parte non verranno reinvestiti, e comunque stiamo parlando di un progetto lungo, quindi ma pochi soldi. Sicuramente Guarin a 15-18 milioni, come sento dire, non mi sembra mal pagato. No, però io vorrei capire chi arriva dopo, perché se poi dopo Nainggolan ne vale 18, probabilmente certo. Possiamo anche ragionare, parlare di altre cifre. Nainggolan ne vale 12-14, perché c'è un'offerta del Milan di 6 milioni per la metà, c'è un sondaggio della Roma di 7 milioni e mezzo per la metà, e stando a quello che ha detto Cellino nel provocatorio, sì, lui lo regalerebbe anche, perché è giusto che vada via. Pier, c'è traffico. Bentner, al di là del nome, se risponde al profilo di giocatore che cercavate come caratteristiche tecniche. Abbiamo visto le cassette, un giocatore d'area, un giocatore anche buono tecnicamente, quindi potrebbe essere una soluzione valida per l'alternativa al nostro gioco. Tutti convocati. Nicola, avrai perso la voglia di fare scommesse? No, scommetto che è in tasca il digestivo Antonetto. Scusa, potrei avere un digestivo Antonetto? Non ho digerito. Certo. Cameriere, un bicchiere d'acqua. Acqua? Non è l'acqua che fa digerire. È il digestivo Antonetto, masticalo. Contro acidità, bruciori, pesantezza di stomaco, digestivo Antonetto. Ah, Antonetto. Chissà se c'è ancora il digestivo Antonetto sul mercato, se è così gli abbiamo fatto pubblicità gratis, caro Pier. Invece noi abbiamo convocato Vincenzo Pincolini, il decano dei preparatori atletici italiani. Buon pomeriggio, Vincenzo. Buon pomeriggio a voi, grazie per il decano. Si fa grande uso di digestivo in questi giorni nei ritiri? Ma no, assolutamente, guarda... Tutte leggende. Esatto, c'è un calcio delle leggende che è quello, diciamo, che è finito un po' negli anni 80, e poi c'è il calcio dove sicuramente c'era meno stress, e poi io dico sempre c'è il calcio dove hanno stress anche i giovani che non dovrebbero averlo, ed è questo con tanti problemi che probabilmente una volta si risolvevano anche con un qualche digestivo in più, senza troppo bisogno di psicologi e compagnia. Pier, i telecronisti prendono il digestivo dopo il panettone di Natale, di Santo Stefano, di Capodanno? Anche Pardo. Appunto. Guarda, Pinco, io avrei bisogno di una consulenza, proprio avrò messo su 5 kg, ho fatto un filotto di amatriciane, cacio e pepe, una roba. E poi veramente... diamo sempre la colpa alle feste, ma non è mica vero, è novembre, settembre, hai capito? Che devo fare? Diciamo che appunto, allora, disegniamo per 2 mesi sto pari. Disegniamo la tabella per Pier Pardo. Per Pardo, come si diceva una volta, sudore, fatica, sudore, lacrime, punto, hai capito? Cioè, adesso anche nelle palestre ti inventano tante cose, anche nel calcio, ai preparatori, ci sono addirittura dei programmi che io non capisco, non che non, a cui sono contro, proprio non li capisco, nel senso che non so leggerli. E allo stesso modo nelle palestre, mentre le ricette, quando uno è grasso, deve mangiare di meno e piano piano rimettersi in movimento, perché se il primo giorno fai troppo, il secondo sei già fermo, non ne vuoi più sapere. Quindi, insomma, un buon senso applicato ad un po' di tecnologia è quello che ti aiuta, ma quando uno ha dei chili in più sa sempre come smaltire. Sì, ovviamente, no, ovviamente per presenti esclusi, Pierluigi. Assolutamente, ci vuole pellegrinaggio, ci vuole un miracolo. Ma invece ti volevo chiedere, mi pare che la moda, almeno in Italia, la moda delle trasferte al caldo sia venuta meno in questi anni, no? C'è stato un momento che andava... Ma sai, la moda per me, Pierluigi, era molto legata al fatto che venivano pagati, addirittura c'erano dei... Sì, dei non ci fila più nessuno, ecco. Non ci fila più nessuno, è questo il problema. Per dire, ci sono, quando riescono ad organizzare determinati eventi c'è ancora un'economia attorno e vediamo che ci vanno anche le grandi squadre. Probabilmente un po' è il discorso che delle italiane pochissime farebbero, hanno ancora appeal per determinati eventi, e poi le nostre pause sono anche molto brevi, attenzione, per dire, perché quando io gli ultimi anni ho fatto mesi all'estero per allenamenti fra Turchia, Spagna soprattutto, Paesi Emirati, per dire, trovavi fino a qualche anno fa, trovavi tedeschi soprattutto, grandi squadre, che adesso anche loro, avendo accorciato l'intervallo, per dire, si allenano a casa o hanno attrezzato anche questo, hanno attrezzato centri d'allenamento, per cui diventa più facile campi riscaldati, diventa facile anche allenarsi d'inverno. Sì, hanno più bisogno di andare via, di andare a caldo, di andare a Dubai. Noi ribadiamo un concetto che abbiamo già affrontato qua alla radio. Cioè, i campi riscaldati all'estero sono la normalità per le squadre di serie C, per dire, proprio, ma in campionati, in paesi anche economicamente, e non sono tanti adesso, più arretrati dell'Italia, per dire, è dato per scontato che tutto il nord Europa deve avere i campi riscaldati. La Germania, quando vediamo questi splendidi campi dove giocano le partite, sono tutti riscaldati, e il nostro nord Italia non è che sia molto differente dalla meteorologia di questi posti. È differente come impianti e come campi riscaldati. Il Galatasaray un po' meno, se mi passate la battuta, non era no, ma era riscaldato il campo di Istanbul. Se ci fossero state le serpentine funzionanti, non credo che avremmo avuto quel campo. Caro Pincolini, Juve-Roma alla Befana è un colpo di fortuna o è la maledizione per voi preparatori, per i giocatori, per gli allenatori? Ma, no, guarda, io ho qualche ricordo. Mi ricordo una ripresa di campionato con un Milan-Napoli. E avere alla ripresa di campionato la grande squadra ti fa stare sul pezzo, la grande partita ti fa stare sul pezzo anche in queste giornate, dove l'unico problema ormai con queste pause, che sono due settimane scarse, è proprio la caduta di concentrazione, la voglia di fare le cose come se tre giorni dopo ci fosse il campionato normale, perché casomai l'unico rischio è quello un po' di dimenticarlo, ecco, il campionato. Io credo che sia un grosso aiuto per gli allenatori avere subito una partita così importante, perché sicuramente anche in queste giornate gli allenamenti sia della Roma che della Juventus saranno di grande livello, e questo è l'importante. I romanisti, che addirittura in gran parte hanno iniziato in anticipo, ha un valore questa cosa o è soltanto simbolico? Guarda, per caricare la piazza? Io penso che abbia molto valore, ad esempio penso anche che determinati problemi potrebbero essere affrontati proprio con una professionalità dei giocatori in grado. Quando convochiamo una squadra per fare 20 minuti di corsa, 10 minuti di stretching e 5, 6 o 10 allunghi su 100 metri, pensiamo a un'attività che un calciatore intelligente potrebbe tranquillamente fare a casa sua, rimanendo in famiglia. E siccome in pratica il primo allenamento dopo una pausa non è molto distante da quello che io ho detto così a spanne in 4-4-8, cioè se il giocatore arriva che ha fatto negli ultimi due giorni due lavoretti così, il terzo giorno si trova con la squadra e può incominciare un allenamento importante. questa è la proprio è il cuore, non farli trovare insieme così solo per fare gruppo, ecco, farli trovare insieme per lavorare, ma facendo allenamenti importanti. Certo, che idea ti sei fatto della preparazione della Roma? Perché Rudy Garcia passava per io adesso lavoro. Lavorando per le nazionali abbiamo arrivano tante voci perché parli con tanti giocatori, quindi sai, abbiamo anche nelle nazionali giovanili dei giocatori che sono in rosa con la Roma. Per dire, la Roma si dice che non lavori tantissimo, che lavora di qualità, ed è chiaro che sono discorsi che ci stanno perché tutto sommato la Roma c'ha solo il campionato, ecco. Poi bisognerebbe sempre fare proprio tirare i bilanci alla fine, però si sa che è una squadra che non lavora tanto, che dà molta importanza proprio per dire ai lavori in agilità, ai lavori proprio quelli generali, per cui che non arriva a dei livelli di intensità come potrebbe essere invece la Juventus, ecco, come in certi livelli di intensità che sicuramente fa anche l'Inter. È uno stile di lavoro di un allenatore straniero che sicuramente potremo valutare alla fine dell'anno. Quindi se ci deve essere un momento di calo legato a questo tipo di preparazione, arriva adesso, potrebbe arrivare strada facendo da adesso, perché sai, in pratica lavori un po' d'estate, poi vai avanti su determinati livelli di frequenza. Sai, cioè, tutto sommato, per dire, la Roma non è una squadra caratterizzata da una vigoria fisica super, non è stata neanche caratterizzata, a parte qualche, mi ricordo adesso la partita col Milan, per dire, mi sembra, dove c'è stato un calo. C'è stata una squadra che ha sempre mantenuto dei 90 minuti abbastanza equilibrati, uno standard costante. Esatto. Pier, io approfitterei di Vincenzo Pincolini per chiedergli, visto che è un tema caldissimo, alcuni lo fanno perché hanno la deroga della società, altri per scelta, altri perché perdono l'aereo, qualcuno, ed è il caso di Tevez, perché ci sono vicende personali, per capire se i rientri scaglionati, soprattutto da Sud America, possono essere un problema. Se, ad esempio, Vincenzo Pincolini si attende domenica sera di vedere Tevez in gran spolvero, anche se è rientrato dopo. Ma sai, ritorniamo al discorso di prima. Un giocatore, per dire, che non va mai a casa in Sud America potrebbe tranquillamente stare a casa anche due giorni di più e non succede niente. Se lui è professionista, che si allena tranquillamente a casa sua in questi giorni. Proprio, guarda, è un problema molto sentito ad esempio nei campionati da cui vengo, anche dalla Russia, perché giocatori, non so, portoghesi non vanno mai a casa, per cui quando vanno a casa si cerca sempre di dargli quei due o tre giorni in più, cioè, ed è un problema se tu in quei tre giorni lì fai la vita da non atleta, che però adesso è difficile vedere giocatori, sono pochi e sono sempre gli stessi, diciamo così. Vedendo un giocatore come Tevez, che è stato rilanciato, che è diventato il beniamino, cioè è difficile pensare a Tevez come un giocatore che non abbia le spinte per voler far bene a tutti i costi. In quel caso lì, un giorno o due di allenamento, cioè è peggio se quando sono in gruppo si allenano male, quello è il vero problema. Quindi te lo aspetti anche tu, Pier, tirato a lucido? Ma sì, sicuro. Penso che io, sinceramente, sai, delle volte c'è questa cosa da parte dei tifosi di pensare che ci siano comportamenti poco professionali, che se perdi è perché non ti sei impegnato. Beh, insomma, qualche foto che arriva dal Sud America, qualche dubbio lo fa venire, l'ha fatto venire in passato, non tanto, sì, mi sembra che quest'inverno non sia successo nulla. Secondo me nella vita di un calciatore alla fine gli obiettivi, le ambizioni sono talmente grandi che se, insomma, che non stai lì a trascurarti per un giorno di vacanza o per una cena in più, esatto. L'obiettivo davanti è talmente grande. No, non so se abbiamo ancora tempo. Sì, abbiamo un minutino. Che effetto gli faceva, insomma, lui che ha vissuto da protagonista all'inizio dell'era Berlusconi, il sacchismo, che sensazioni ha sul Milan? Perché comunque, insomma, quello che è successo in autunno è una rivoluzione. Guarda, intanto ti dico che io ti do delle sensazioni da milanista, perché per dire sono rimasto milanista. Le sensazioni che non ci sia una bussola mi dà, che per dire... Io poi vedendo, andando molto in giro a vedere giocatori giovani, chiaramente mi chiedo anche come mai in una squadra da sesto o settimo posto non trovi posto grandemente un giocatore come Cristante. Andiamo invece come Milan, andiamo a prendere anche giocatori che non sono poi di così chiara fama, almeno potremmo rischiare su dei giovani nostri che sicuramente hanno fatto vedere di avere qualità. E che cosa gli manca? Gli manca l'esame della partita. Se questo esame della partita non lo fanno mai, è chiaro che continueranno a essere dei punti interrogativi. per dire, secondo me proprio io vedo squadre, la Fiorentina che ha una strategia, allora adesso la Fiorentina è già una buona squadra, un giocatore, due in più può diventare una squadra di livello ancora più alto, cioè al Milan sembra che si vada un po' random, un po' di qua, un po' di là, dove capita, e questo è quello che, fatemi parlare una volta da tifoso, fa è quello paura. Che ti brucia. Esatto, tra l'altro esatto. Un anno fa di questi giorni stavamo parlando del possibile arrivo di Mario Balotelli, oggi si parla della possibile partenza di Mario Balotelli, esatto, doveva essere il simbolo esatto. Anche futuro del nuovo Milan. Grazie a Vincenzo Pincolini. Grazie a voi, ancora ciao, auguri. Saluti buon anno. Ciao, ciao. Comincia a correre, Sì, a correre. Ma lo facciamo correre noi, Pier Borsa. Convocati. Caro Pier, un amico su Twitter scrive: non era meglio se ve ne restavate in ferie fino a Juve Roma? Un amico, rispondigli. Vabbè, ho capito. Cioè, ma io sono d'accordo. Ma io anche dopo Juve Roma sarei rimasto in ferie in grande serenità. Assolutamente. 800 a gennaio 800240024. Leonardo da Firenze. Leonardo, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. A voi, grazie. Dica. No, io volevo fare una osservazione sulla nuova Fiorentina, che da 2 o 3 anni si è ripresentata con una veste nuova, più pacifica e più leale e veramente professionale, insomma, mi sembra il miglior gioco del campionato, forse dopo la Juve, ecco, ora come ora. Sì, sicuramente, riprendendo anche Pier il discorso di Pincolini prima, una società e una squadra che hanno un progetto e un indirizzo tecnico ben chiaro, poi ci sono anche i limiti, perché la Fiorentina non è ancora una big e non lo è a partire dai bilanci oggi ad esempio pubblicati sulla Gazzetta dello Sport, però si capisce chiaramente da dove si viene e dove si vuole andare. Sì, allora innanzitutto la Fiorentina non ha avuto Mario Gomez. Quindi la classifica della Fiorentina va vista come se alla Juve avessero tolto Tevez o a Napoli avessero tolto Higuaín. Erano i tre grandi colpi, i tre grandi attaccanti presi e pagati in fior di soldi di quest'estate, comprati quest'estate, i tre giocatori che si erano presi le copertine, e la Fiorentina al suo praticamente non l'ha mai avuto. Ora poi nel calcio non è che 2 più 2 fa sempre 4, probabilmente con Gomez in campo Rossi avrebbe segnato di meno o avrebbero segnato di meno i centrocampisti, non è che uno può aggiungere i gol e dire che la Fiorentina avrebbe avuto automaticamente 10 punti in più. Però insomma il sospetto che questa squadra, se recupera Gomez, possa avere una qualità diversa, visto che quest'anno era stata costruita sull'arrivo di questo giocatore, mi sembra un'ipotesi più che probabile. Quindi no, la Fiorentina sta facendo bene, lo diceva un minuto fa Pincolini, la Fiorentina, lui appunto da milanista, diceva che non vede il progetto, che non vede la bussola, e la Fiorentina invece questo progetto ce l'ha molto chiaro, molto preciso, ha una filosofia di gioco che è assolutamente quella decisa con i dirigenti, con Montella, per quel modo di giocare, giocatori presi per fare appunto tiki-taka, possesso palla, qualità nel mezzo, tanti spagnoli, che può fare qualcosa che non c'era prima, esatto. E che in questo momento chapeau, è l'imprinting. L'anno scorso già è stato il premio della critica la Fiorentina, quest'anno forse il premio della critica può essere fino ad oggi la Roma, ma insomma la Fiorentina secondo me crescerà, secondo me migliorerà la sua classifica. Intanto si allunga su Twitter l'elenco dei cosparsi di marmellata per un gol di Zanetti, Gabriele, di Kuzmanovic, Peppe, di Pereira, Lina, poi c'è chi rimpiange la partenza di Niang, che effettivamente credo sia fermo un gol in Coppa Italia, con la regina, e sì. Al celebre palo al Camp Nou. Poi su Twitter ti risponde Giampiero Timossi, amico Timossi, ecco, è vero, Cassano non se ne va, ma quanto detto oggi dimostra che Cassano voleva tornare, soltanto Garrone ha scelto di non farlo rientrare. Questo è quanto ti scrive Giampiero Timossi. Ne parlavamo poco prima di Natale, sì. Proprio a tutti i convocati con Timossi. Per me questa cosa qui non è mai esistita, lo dico sinceramente. Lo dicevo prima di Natale, nel senso che comunque, ed era comunque una cosa che dipendeva dalla Samp, che Cassano stesse bene, cioè a me la Samp di oggi non mi ha sorpreso, perché comunque Cassano al Parma sta benissimo, sì. Non aveva nessuna voglia di andarsene. Probabilmente nemmeno il Parma di venderlo, non c'era una suggestione giornalistica, però era incredibile, perché veniva fatta rimbalzare questa cosa, e a un certo punto anch'io avevo il sospetto che a Genova stesse succedendo qualcosa. Non è successo. Secondo me una vera notizia c'è oggi, e cioè il fatto che il 2 gennaio sappiamo che è l'inizio del mercato. Io quello che mi sento di poter dire è che evidentemente Cassano, questo segnale eventuale da parte della Sampdoria l'avrebbe preso in considerazione se fosse arrivato fino adesso. Adesso ha voglia evidentemente di concentrarsi sulla stagione, anche per rispetto del Parma ha fatto questa conferenza stampa. Sì, ha detto anche mi spiace aver creato disturbo alla società e ai compagni per tutto quanto accaduto nelle ultime settimane, queste voci che evidentemente, ma del resto lo ha detto Cassano, hanno disturbato lui, forse hanno disturbato anche il Parma. Certo. Le ha chiuse queste voci, perché se no si poteva andare avanti fino al 31 gennaio. Invece siccome, come diciamo, a Roma non c'era trippa per Gatti, forse non soltanto a Roma, io credo che sia stato alla fine un punto di vista professionale quello di oggi di volersi togliere dal mercato definitivamente, ma di fondo questo succede perché lo pensavo il 23 dicembre e lo penso a maggior ragione oggi. Cassano a Parma sta benissimo, la famiglia è contenta, trattato come un re, sta facendo un'ottima stagione. Poi è chiaro che appunto il Tardini non è il Bernabeu e quindi magari si becca qualche titolo in meno, qualche highlight in meno, e questo è evidente. E anche il sospetto da parte di alcuni, che è un tema giornalisticamente io non sono d'accordo, ma sicuramente l'argomento ha una sua rilevanza, che magari possono pensare che sia un giocatore da squadra di provincia, da squadra di metà classifica e nulla di più. E questo è un ragionamento che ci può stare sicuramente. Fabrizio D'Ancona. Fabrizio, buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio. Prego. Io sono un tifoso dell'Inter. Sì. Credo che noi tifosi interisti per un bel po' dovremmo metterci l'anima in pace, perché i propositi di questa nuova società non mi sembrano molto rosei. In questo mercato non ci saranno investimenti, quindi probabilmente l'Inter non arriverà fra le prime tre. A giugno ci diranno che non avendo raggiunto l'obiettivo Champions non si potranno fare grandi investimenti. Il tetto salariale per i giocatori è di 2.500.000 sì, euro. Sì, poca roba se si vuole prendere un top player, Fabrizio. Io credo che lei abbia ragione, i tifosi dell'Inter fanno bene, caro Piera, a sapere che li attende un periodo medio-lungo di ristrutturazione di una società. Però attenzione, io davanti l'esempio della Juventus, estate del 2006, la caduta in Serie B, il minimo dei ricavi, sembrava tutto finito, non è passata una vita e la Juventus è tornata a essere una squadra leader, anche se lì proprio in quegli anni era nato il progetto dello stadio, cosa che mi pare di aver capito anche nell'intervista ad Angelo Mario Moratti. Per l'Inter per il momento è un progetto che non viene messo in cantiere, Pier. No, ma nella rinascita della Juve c'è una serie di cause, di concause. Una è Conte ha fatto un lavoro eccezionale. Sì, è stato un acceleratore. Due è lo Juventus Stadium. Tre, e non va sottovalutato, è la frenata brusca che il Milan ha fatto nell'estate del 2011. Sì, la frenata del Milan, la frenata dell'Inter dopo il triplete. Perché questo ha cambiato un po' le cose. Diciamo che il primo scudetto della Juve è stato uno scudetto ottenuto con un grandissimo lavoro, ma la Juve non era una squadra casuale, non programmato, nel senso di non programmato. Esatto, il Milan aveva una rosa sicuramente superiore, ha avuto tanti problemi, tanti infortuni e l'ha un po' buttato via, fra polemiche, eccetera, Montari, tutto quello che volete, non sì, evitiamo su questo piano. Evitiamo che siamo nella settimana di Juve-Roma, ne avremo. Speriamo di no. Poi è successo nell'estate successiva che il Milan ha frenato pesantemente, perché comunque ha scelto una strada di austerity per il bilancio completamente diversa. Da quel momento in poi, nell'ultimo anno e mezzo, la Juve è stata nettamente la squadra più forte d'Italia, quella che ha la squadra migliore e che, insomma, se non fa errori il campionato lo vince. Lo pensavo l'anno scorso, lo penso anche quest'anno. Andrea da Treviso, 800 24 00 24. Andrea, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a voi tutti. Esco un po' dal vostro tema tecnico. Io sono tornato da Londra, vado spesso per motivi miei anche di vacanza, e ho avuto il piacere di farmi l'ennesima buffata di calcio in questo periodo festivo. Sì. Devo dire che da tifoso di calcio, tra l'altro dell'Inter, ho una certa età, da giovane ho spesso allo stadio, e via via non sono più andato allo stadio per tutte le tematiche legate alla difficoltà di vivere live il calcio in Italia. Devo dire che andando a Londra mi sono visto due partite, il derby di Londra, Arsenal West Ham e poi Liverpool-Chelsea. È proprio contagioso l'atmosfera ed è veramente incredibile come si è creato un gap, al di là dell'aspetto tecnico, che una squadra italiana, a mio parere, in una partita cieca, in una Champions, può sempre battere un inglese, come è venuto a noi con l'Inter anni fa col Chelsea, però tutto il contesto io credo che metta veramente a nudo un declino che i dirigenti di calcio italiani sbagliano ancora a non ammettere, perché è veramente un declino clamoroso, perché è contagioso andare in questi giorni a Londra, ed è incredibile per me come tifoso capire come questi atleti, anche se super, super pagati, giocano ogni due giorni, ma è soprattutto caro Pier, giocano nella mitica pausa natalizia, evidentemente si può, del resto si può anche in Italia, lo fanno quelli della Serie B, non lo so, forse sono un po' più sfigati, secondo me fanno benissimo, fa benissimo il presidente di Lega della Serie B a farli giocare, e del resto i numeri gli danno ragione, però lo spettacolo di queste due settimane in Premier è uno spettacolo impagabile. Assolutamente, no, io sarei per giocare il 31 sera, così ci risparmieremo tutti il problema del Capodanno, che insomma porta uno stress nella società mostruosa, dove si va, che si fa, al cenone, passo da questo, sarebbe fantastico. Vai allo stadio, fai un brindisi e poi a festeggiare a profusione fino alla mattina dopo. No, potresti anche parlare di arbitri, in Inghilterra adesso lo stanno facendo, non so se hai letto le prime pagine oggi, ce l'hanno tutti con Webb, che in 5 giorni ha inanellato Chelsea-Liverpool con un paio di rigori negati a Liverpool, ieri con lui se la sono presi quelli del Manchester United. Comunque, pensa caro Pier, che Webb era l'arbitro desiderato dai tifosi della Roma per Juventus-Roma. Perché hanno chiesto un arbitro straniero. C'è sempre Webb. Comunque la tentazione, la speranza che rivolgendosi a un arbitro straniero. Ma questo per dire che non è detto che i nostri siano peggio. Ma no, i nostri non sono peggio, è che chiaramente, siccome tutto ciò che riguarda la polemica sugli arbitri confina in maniera profonda con la cultura del sospetto, è chiaro che se l'arbitro è straniero pensi che una parte di questo sospetto lo si possa eliminare a prescindere, no? L'indipendenza è come il discorso dell'indipendenza della magistratura, ecco, l'indipendenza della classe arbitrale, è un po' questo il concetto che secondo me c'è dietro. Invece no, ti volevo dire sul discorso del giocare durante le vacanze, questo è chiaramente un sintomo di debolezza del nostro calcio, perché d'accordo, noi non ce l'abbiamo culturalmente, sicuramente ci sarebbe la CEI che protesterebbero non so chi, le associazioni, le famiglie, non so chi, qualcuno protesterebbe sicuramente in Italia, però il concetto che fa sì che in Inghilterra si giochi molto a Natale e a Pasqua è un concetto semplicissimo, e cioè che sono i giorni nei quali le persone stanno insieme, i padri stanno con i figli, le famiglie sono riunite, c'è più tempo libero, e quindi una azienda che fa entertainment e pensa che sono aperti anche i cinema, ecco, e fanno anche il terzo spettacolo serale, non lo so, invece gli stadi sono chiusi, anche qualche museo, difatti siamo un paese in difficoltà anche per il turismo, però oggi non abbiamo voglia di fare discorsi seri. Caro Pier, ti mando a correre così smaltisci qualche chilo, però ti dico che domani a quest'ora sapremo il nome dell'arbitro di Juventus Roma, e quindi noi ci troviamo qui e guarda, ho l'impressione che ne parleremo. Ma ne parleremo, ma dobbiamo... Ma parliamo anche di mercato, parliamo anche di altro, parlare meno possibile, esatto. Dai, ciao Pier. In terra non lo sanno il nome dell'arbitro. Lo sanno, Pier, lo sanno. Siamo noi che diciamo che gli altri non ne parlano. Leggiti le prime pagine di oggi. Non lo sai, web, vabbè. Ciao Pier. Ciao. Tutti convocati. Chiede Ulisse al 349-238-6666, in Inghilterra ce l'hanno Cortina, lo sci e il turismo invernale, come si fa a giocare durante la sosta natalizia? Si gioca come si tengono aperti i cinema, perché mi sembra che in Italia ci sia il turismo invernale, pure i cinema siano aperti e le famiglie che nel periodo delle vacanze invernali sono unite e hanno più tempo vanno al cinema, e probabilmente quelle che se lo possono permettere vanno anche a Cortina, blackout permettendo. Roberto da Milano. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione e buon anno. Grazie, Giovanni. Buon anno anche lei, prego. Volevo dire, io riguardo i giocatori dell'anno, io mi auguro da milanista che possa essere El Shaarawy. Sì, anche se temo dovrà attendere. E in più anche per riguardo al calcio mercato, ad esempio ho sentito bene adesso Pincolini, che sono pienamente d'accordo che dovrà andare sulla politica dei giovani, come aveva detto il Milan, però a quanto pare non va su quella strada lì. No, non ci va, però credo che i grandi club come il Milan, come l'Inter, come in parte la Juventus abbiano soprattutto il dovere di vincere, magari non tutti gli anni, però provare il più possibile ad andarci vicino, e quindi la politica dei giovani è pericolosa, non la sta facendo nemmeno l'Inter da questo punto di vista, che parla di politica dei giovani, e poi ha un allenatore come Mazzarri che per definizione ha sempre chiesto ai suoi presidenti di avere dei giocatori pronti, preparati, dei giocatori già formati formati. Del resto fin qui i risultati gli hanno dato ragione, lo ricordo, Mazzarri è credo l'unico allenatore italiano mai esonerato e comunque con un percorso professionale ottimo e di crescita, però di sicuro il Milan non sta facendo politica dei giovani. Grazie Roberto e parliamo un po' di pallacanestro. Well, now they gave him his orders in Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38. This is old 97. Put her in the dispenser on time. Giocare o no, Coach Peterson, a Natale? C'è chi scrive 349-238-6666, l'NBA gioca pure a Natale, sono professionisti dello spettacolo, dovrebbero esserlo anche i calciatori. Well, certo. Ciao intanto. Si gioca questa sera in Eurolega e cosa si vuole fare? C'è proprio il calendario, il problema non è di giocare Natale o Capodanno, il problema in Europa è che i calendari sono talmente fitti, l'Eurolega ha fatto un'espansione. L'ultimo anno che io ho fatto l'Eurolega nell'87, abbiamo giocato totale, compreso la finale, 15 partite. Adesso giocheranno il doppio. Milano ne giocherà 14 semplicemente in questa seconda fase, esatto. Ne ha già giocate altrettante e poi ci sarà la fase di eliminazione diretta, si spera. E possono giocare fino a 30 rotte partite. Questa è ovviamente un'espansione dell'Eurolega che va a scapito, a danno del basket greco, basket italiano, basket tedesco, basket francese, eccetera. Quindi bisogna fare le scelte qui. Io sono favorevole ovviamente a un campionato europeo, però io ho sempre detto fare queste cose come fanno in NBA, alla fine dell'anno, non durante il campionato. Ti leggo dal blog della Gazzetta dello Sport, Paolo Bartezzaghi oggi, Livio Proli, credo quest'estate, Mosse e Hackett non arriveranno, sono sotto contratto a Siena, dovevamo prenderli l'anno scorso, non vogliamo avere la fotocopia della Mensana. Questa sera ad Atene, debutto nella seconda fase delle top 16 dell'Eurolega, c'è Milano o c'è Siena, caro coach? Se c'è Milano, ovviamente sì. Ovviamente Livio Proli fa bene a mascherare. Ha cambiato idea evidentemente. Sì. Lui fa bene a mascherare le mosse, è inutile dire le cose. Bisogna dire sempre non quello che faremo domani, bisogna dire ieri abbiamo fatto questo qui. Sulle speculazioni bisogna veramente tamponare tutto, dire no, qui lui è a Siena, noi siamo qua, eccetera. Poi se arriva l'opportunità cambia tutto. La verità è che il mondo gira, fa un giro ogni 24 ore, oggi è una nuova giornata, non è ieri, è oggi, non è il 1 gennaio, è il 2 gennaio, può succedere di tutto e domani tutto ancora, quindi con Acre è successo questo. Sì, Siena travestita da Milano, che chance ha in questa seconda parte dell'Eurolega? Well, io dico che hanno le sue possibilità, ok, è un girone veramente fortissimo, ma tutti e due i gironi sono forti, ok, quindi bisogna prendere come hanno detto loro, come una partita alla volta, non dire oddio dobbiamo affrontare il tizio Caio Sempronio, lascia perdere, prendere prima, affrontare quello lì, archiviare quello, fai per secondo, come dico, ogni giorno è un nuovo giorno, ok, come dico, oggi è il primo giorno del resto della tua vita, bisogna affrontarlo così. Io non è tanto per dire, lo facevamo io quando io la navo, pensavo proprio così, anzi io non sapevo spesso chi giochiamo la prossima partita in Coppa di Campione, né dentro né fuori né avversario né niente, mi concentravo su questa partita, finita questa chi è la prossima, okay? Quindi bisogna affrontare quindi nessun dramma se questa sera col Pana fuori casa, debutto difficilissimo, andrà male, durissimo. Dico questo, sulla carta favorito con Panathinaikos, sulla realtà in campo Milano avrà durante la partita un momento in cui può vincere la partita, deve prendere, cogliere l'occasione, cioè carpe diem in poche parole. Peppe Poeta che va a vittoria, significa che siamo sempre più d'esportazione anche i nostri giocatori, lasciamo stare i magnifici 4 che sono nell'NBA, però anche questa è una buona notizia, anche se il Laboral Vittoria è una squadra non di primissimo livello. Well, e con lui la possibilità ce ne sono, ok? Scariolo lì e compagnia, e quindi grandi tradizioni, ha fatto Final Four, ha fatto finali, un paio di finali di Eurolega, quindi Ivan invece altre cose, quindi possibilità ce ne sono. E lui che deve, nonostante il fatto che non giochi da molto tempo, dalla nazionale in estate, deve trovarsi la forma abbastanza in fretta e farsi valere tutto lì. Ha detto lui oggi, un sogno realizzato, bravo lui, buona mentalità di poeta. Con Hackett, discorso chiuso invece in Italia per il campionato, so che tu sei allergico a queste cose, siamo nemmeno a metà stagione, poi ci sono i playoff che sono un'altra vita rispetto alla stagione regolare, però diciamo che almeno in Italia, se Milano si è travestita da Siena o viceversa, il prodotto dovrebbe essere non troppo diverso da quello delle ultime 5-6 stagioni. Siena sta disputando, no, non ti piace. Siena sta disputando un ottimo campionato interessante, 5 squadre in testa dopo quante 13 giornate, così mai successo nel passato, Milano secondo posto, quindi tutto lì molto interessante. Io devo dire questo qui, con l'acquisto di Hackett io penso che Milano ha fatto il passo necessario per fare un salto di qualità, cioè lui, a parte il fatto sul valore in attacco eccetera, super difensore e soprattutto uno che marca il playmaker dell'altra squadra, con 2 metri atleta come Hackett, una forza fisica, lui dà veramente tantissime cose a Milano che non c'erano prima. Io ho visto la partita l'altro ieri a domenica proprio qui a Milano, era in prima fila sotto canestro e ho visto il suo impatto in difesa, cioè proprio è su ogni pallone, ogni aiuto, ogni recupero. Sì, bisognerà attendere magari qualche avversario più forte, più probante. Giovanni sicuro, ok, quindi e da stasera vedremo, questo qui non avrà davanti Pinco Pallino, avrà Dimitri Dimantidis davanti questa sera, quindi tutto un altro mancino come lui, quindi ci sarà veramente da vedere delle belle. Grazie coach. Ciao ragazzi. Grazie coach Peterson. 800 24 00 24, Claudio dalla provincia di Modena. Claudio. Sì, eccomi qua. Prego. Salve, posso parlare? Sì. Mi sentite? Sì. Salve, mi dispiace che è andato via Gianluigi Pardo, perché niente, sì, mi faceva piacere salutarlo, comunque arrivederci. Buon anno a tutti. Esatto, buon anno a tutti. Io volevo semplicemente commentare quello che aveva detto un ascoltatore precedente a proposito dell'Inter, che diceva che diciamo dovrà aspettare molto a lungo. Ma io sì, io sono juventino e concordo pienamente, ma penso che avrebbe dovuto aspettare già anche prima, perché la Juventus era andata in Serie B, ma aveva precedentemente 3 tra i più grandi manager che c'erano in giro sul mercato nel campo calcistico, Moggi, Giraudo e Bettega. L'Inter non mi sembra che abbia questi 3 personaggi. No, ma questo no di sicuro, diciamo che il ciclo, poi certamente facilitato dalla scomparsa della Juventus, dell'Inter, era in realtà un ciclo iniziato, perché Mancini ne aveva già poste le basi e soprattutto la società, soprattutto Moratti, erano in una fase di investimenti, di spese, e quindi esistevano già i presupposti, le basi su cui poi dopo, anche per la sparizione della Juventus, le difficoltà del Milan e tutto quello che conosciamo, poi l'Inter ha potuto costruire il suo ciclo che l'ha portato alla finale di Madrid. Ci scrive un amico, un'amica anzi, Sara, perché non si pensa all'Inter e al periodo del triplete come a un'eccezione straordinaria? Sottoscrivo, probabilmente quella Champions resta comunque un'eccezione, perché nel 2010, nell'estate del 2010, l'Italia aveva già un movimento calcistico in declino, e quella Champions è un po' un fiore nato nel deserto. Gianluca da Milano, buon pomeriggio Gianluca. Posso parlare? Prego. Salve, innanzitutto complimenti per sempre per la trasparenza e la competenza che mettete nella trasmissione. No, volevo fare 2 osservazioni, siccome sono appassionato sia di calcio che di basket. Sì. Le faccio veloci, allora quella sul calcio, un po' sulla diatriba Cassano, se portarlo al mondiale oppure no. Allora, ritengo dal mio punto di vista Prandelli una persona molto sia pragmatica che intelligente, oltre a essere un grande conoscitore di calcio. Io non vedo perché Prandelli non debba portare Cassano in nazionale. Se non lo porta è solo per un motivo comportamentale, se c'è qualcosa che noi non conosciamo. Sì, basterebbe spiegarlo, perché se poi si dice, ma io in questo concordo con Pierluigi, che le porte sono aperte per tutti, che verranno ascoltati i segnali del campionato, poi allora devi spiegare perché se Cassano fa una buona stagione non viene nemmeno preso in considerazione. Gianluca, prego, abbiamo ancora qualche secondo. Sì, no, solo fine di discorso, anche perché anche nell'ultima intervista che lui ha concesso alla Gazzetta ha detto possiamo battere i migliori, ma non siamo i migliori, siamo in termini di calcio, sto parlando. È ovvio che lui anche in alcuni frangenti, non facendolo partire magari come titolare, ma anche in alcuni frangenti del mondiale, è un mondiale che si giocherà a ritmi bassissimi perché ci sarà un tasso di umidità altissimo, si prevede, può tornare utile. Poi una cosa velocissima su Milano, nel basket. Sì. Milano ha riempito tutti i tasselli che gli mancavano. Adesso io credo solo una cosa, prima ne parlava Coach Peterson, credo, essendo anche io un allenatore, nel mio piccolo però erano ragazzini, credo che adesso sta molto anche nella mentalità e dei giocatori di mettersi a disposizione della squadra. Non c'è dubbio, Gianluca, non c'è dubbio, e credo che da questo punto di vista il fatto che vengano quasi tutti da Siena sia una garanzia. Grazie Gianluca da Milano, abbiamo finito qui, grazie a Franco Piantanida, autore di questa puntata, a Filippo Aureggi in regia, un saluto anche da Giovanni Capuano, ci risentiamo domani a partire dalle 14.05. Tutti convocati.